Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. E buona domenica a tutti. Te, buongiorno, Te. Te. Buongiorno, te. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dove è andato Angelo Vaira? Sono stato un po' a Bergamo da amici. No, ho detto, vedi che non sei stato veloce. Ho detto, dove è andato? Vabbè, tu sei proprio veloce. Devo prendere quota. Adesso dammi qualche minuto e ci arrivo. 120 caffè. Sì, che non è, voglio dire, non sono le 6 del mattino. Ma va bene, ma va bene. Allora, per svegliarci un po', parliamo di cimici. No? No. Cosa come? Sono le cimici? Il mondo dalla prospettiva della ragazzi, cimici. Io non so voi, ma vi giuro, questo è il primo anno che vedo un'invasione di cimici come non mi ricordavo. Dovete sapere che quando Rosita sente una cimice, va nel panico, cioè va in crisi proprio. Dice, no. Adesso io me ne vado fuori di casa, ma fuori ce ne sono di più. No, perché ho paura che di notte, visto che fanno, a parte fanno un rumore pazzesco mentre ronzano, neanche avessero un motorino. Ah, ma capito, è così. No, e poi oltretutto ho paura che mi entrino nelle orecchie. Non lo so. Mentre dormo, ho paura che entrino le orecchie. Poi il fratello del dottor Vaira, gentilmente, pochi giorni fa, mi ha detto: ma lo sai che ho letto una statistica che ogni essere umano, mentre dorme la notte, mangia in media 2 ragni a sì, notte? Vabbè. Cioè. No, io non ci credo, dobbiamo andare a fondo di questa questione. Comunque la domanda nasce spontanea. Rosita qualche giorno fa mi ha detto: ma che cosa servono? Le cimici? Diciamo cosa? Cosa servono le cimici? A no, cosa ma io intendevo in questo disegno divino qual è appunto, qual è, ma è proprio quello l'errore. Qual è lo scopo della cimici? Qual è lo scopo dell'essere umano? No, allora qui dobbiamo, torniamo ad un discorso vero, bello. Sì, poi no? Mi sono pentita di questa domanda. Visto, no, vabbè, non è pentita, però mi sono pentita di questa domanda. Annuncio. Allora, tutti quanti se lo chiedono, no? Cioè, l'essere umano, come abbiamo letto l'articolo di quel giornalista, cos'era, del Foglio, forse qualche settimana fa, che dice: i cani, adesso prima cercavate i tartufi, oramai non servite più a niente, no? Ti ricordi? Sì, proprio in quel sì, momento sì. C'era il terremoto, i cani che stavano salvando la gente. Comunque il punto è, l'errore, l'errore qual è? È misurare il valore di una specie o di un essere vivente in base a quanto ti serva. È vero, è vero. E questo è un errore viziato da antropocentrismo. Quindi la cimice perché esiste? Vediamo se hai, perché ho condiviso su Facebook un articolo. Perché esiste? E quindi, ecco, ci troviamo qui al cospetto di una cimice e spesso la gente si chiede: ma perché esiste? E allora chiederei qui a Rosita se ha imparato la lezione. Sì, sono la cimice. No, non sei la cimice, dimmi perché perché esiste una cimice. Ci troviamo qui al cospetto perché di una esistono cimice, le cimici. Ma cosa ne so? Allora, la cimice è sbagliato, giusto appunto, ho capito che è sbagliato dire a cosa esiste? Serve. Esistiamo tutti perché facciamo parte di un disegno. Allora, signore, la cimice esiste perché è brava a farlo. Questo è il punto. Cacchio, è vero, l'ho pure ogni essere vivente difende semplicemente se stesso. Non è che deve servire all'essere umano per avere una ragione di esistenza. Ma passiamo al prossimo articolo. Se c'è non una ci bella fosse, dottor notizia. Vaira, io qui che figura ci farei? Allora, però mi giunge spontanea una domanda. Sì. Perché esiste Cruciani? Cruciani esiste perché è bravo a farlo, questo è il punto. Questo mamma è il punto. Almeno, mia, meno almeno male in questo, non c'è una specie, ce n'è solo uno. Almeno in questo habitat che è Radio 24, no? E gli ascoltatori che lo seguono, lui è bravo a esistere. Ma passiamo all'articolo pubblicato su Telegraph and Argus di questo signore che della contea di Bradford negli Stati Uniti. Sì, che noi abbiamo parlato tanto della tortura che è stata fatta a questo cane Angelo giù in Calabria, abbiamo soprannominato fatto... Angelo, sì, perché veniva torturato. Questi quattro ragazzi, voglio dire, per chi magari non ha mai ascoltato la storia, hanno torturato e ripreso con i loro cellulari le torture, le sevizie che hanno fatto a questo cane che è morto purtroppo lentamente con grandissima sofferenza fino a essere stato poi impiccato. Esatto. E con il loro divertimento poi l'hanno buttato hanno su Facebook. Hanno buttato su YouTube, Facebook in rete quello che hanno ripreso dicendo: tanto a noi non ci succederà nulla. E allora tracciamo un parallelo con gli anglosassoni, no? Esatto. Tracciamo un parallelo con gli anglosassoni, vediamo che fine ha fatto la nostra etica, il nostro senso di giustizia italiano, che a volte semplicemente si grida un po' la vendetta. Peter Walker di 21 anni, cosa ha fatto Peter Walker? Durante una caccia al tasso, i cani di questi qua che sono messi alla caccia al tasso hanno praticamente combattuto con questi tassi, la lotta è durata per 10 minuti, sì, molto sanguinosa, molto li hanno trascinati per terra, e lui cosa faceva? Filmato col cellulare senza intervenire, lui non ha partecipato, però che ne so, rideva in modo maniacale, dicono gli avvocati. ha dato sostegno a questa cosa qua, non ha fatto nulla perché venisse fermata questa strage qui, e quindi questo video poi è stato portato davanti alla corte di gli hanno dato praticamente una pena detentiva di 26 settimane. Il procuratore Andrew Davidson ha dichiarato che è il caso più grave che ho visto di delibera crudeltà verso gli animali, si tratta di un livello di top end di crudeltà. Oltretutto questo ragazzo ha cercato di dire: io non ho fatto niente, ero solamente lì, però anche solo il fatto che ci fosse una sua partecipazione anche passiva nel non far nulla per aiutare gli animali, anzi riprendeva e rideva addirittura in modo sadico, dicevano, si è sentito ridere in maniera maniacale, è stata un'attività significativamente pianificata, il suo coinvolgimento era colpevole con la sua presenza e incoraggiamento. Egli anche si è sentito ridere in maniera maniacale, ha detto Davidson. Il banco degli imputati gli è stato detto: tu eri lì, sei stato coinvolto, non hai fatto nulla per cercare di fermare quello che stava dicendo. Questo succede ovviamente a Bradford in Inghilterra, e non solo lui ha perso il rispetto di tutta la sua famiglia che l'ha buttato fuori di casa, cioè la famiglia di questo individuo gli ha detto: ah sì, tu sei così, con te non ci voglio più avere nulla a che fare. Lui deve essere... E poi è stato squalificato dal tenere altri animali per tutto il resto della vita. Quindi questo ha avuto meno un ruolo minore rispetto ai quattro ragazzi che hanno torturato Angelo, no? Perché loro stessi sono stati partecipi di questa cosa, è stata strategicamente pianificata a tavolino quello che loro hanno fatto, hanno partecipato eccetera eccetera. Io voglio vedere adesso i magistrati italiani cosa fanno con lui, così abbiamo un parallelo. Vorrei che si prendesse esempio. Perché molte persone dicono: quelli sono giovani, adesso che cosa gli possono fare? Magari hanno la condanna, poi in carcere non ci vanno. Allora, vogliamo per esempio impedire a questi ragazzi di tenere animali per tutto il resto della loro vita, così che se lo ricordino, vadano a fare volontariato nei canili? Per esempio. E ora facciamo una pausa, subito dopo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Dunque, chiediamo ai cani se sono felici di andare in toelettatura. Questo è l'argomento che tra poco tratteremo con la nostra Rosita Celentano e un ospite importante che introdurrà lei stessa. No, più che altro volevo fare un'anticipazione. Allora, oggi è domenica, mercoledì scorso. Io non so chi ha avuto l'opportunità di vedere, fra l'altro, questo nuovissimo programma di Rai 2 che mi piace molto. Nemo. Sì. Che va in onda nessuno escluso, mi sembra vada in onda alle 21.10 alla 21.20, dove si parla veramente di tutto e interessa veramente tutti, giovani, adulti, anziani, perché si trattano un sacco di argomenti. A me mi hanno chiamato sapendo che noi facciamo la trasmissione, che io sono amante dei cani, che difendo i diritti degli animali, a parlare del rapporto con l'altro, in questo caso l'altro era il cane. La cosa pazzesca è che non so chi ha avuto l'opportunità di vedere il programma, ma lo spiego per chi non l'ha visto. Prima che io intervenissi ho visto un video che a me mi ha abbastanza, non solo inquietato, ma mi ha fatto anche arrabbiare, perché c'è stato il classico video di proprietari di cani, in quel caso erano tutti cagnolini molto piccoli, quindi o chihuahua super piccoli o volpini super piccoli, che vengono agghindati veramente come delle palle di Natale, dell'albero di Natale. Cioè, io sono la prima che ha il golfino per il cane, e come ho detto una volta, ho la carrozzina, ma la uso quando vado in posti come la stazione centrale, perché sono state spezzate zampe ai cani con i trolli e la gente che corre per pigliare il treno. Io ne ho due cani con i guinzali, diventa difficoltoso. Allora, per far stare proprio tranquilli i cani, oppure la carrozzina va usata con un cane disabile, come potrebbe essere Jean-Pierre, non per andare in giro col carrozzino con dentro i cani, con i fiocchi, con le cose. Ma che c'entra? A me piace il cane che sia trattato bene e che deve essere sempre lavato. Giusto quello, cioè... trattato bene. No, ma lì c'era a un certo punto la spa per i cani. Ma io lo voglio pulito. Cioè, io voglio il cane pulito che non deve puzzare, capito? Ci metto pure il profumo addosso. E deve andare in toelettatura tutte le settimane. Ma perché perdo tempo con questo qua? Capito, ma cioè, non è che le tue opinioni sono le uniche che siano valide. Voglio sentire la voce di un esperto. Perché secondo me al cane fa bene. Guardi, lei non mi conosce, però le devo dire subito una cosa: io ho sempre ragione. Glielo chiedo al mio fidanzato. Vabbè, capito, è la sua opinione, la sua idea del mondo, ma deve essere poi sostenuta dai fatti. Adesso spegniamo il microfono a questo intruso. Ecco, quando no, c'è... Ecco. Che... Mi aspetto veramente il microfono. Non è il modo giusto di trattare chi dissente. No, no, è il modo giusto. Dittatori. Io sono democratica, quindi spegniamo il microfono a questo intruso. Per dirle, prima di chiamare, perché ho voluto telefonare alla, no, alla nostra Barbara Gallicchio, la veterinaria, perché la cosa che a me ha allucinato è vedere questi piccoli chihuahua in queste spa dove gli mettevano sulla fronte, sulla testa questa cremina con sto pennello, e vedevi questi che guardavano sto aggeggio in testa con sto fanghino, e non so quanto sia utile, ma soprattutto fargli il bagno tipo alle terme con la vasca idromassaggio col chihuahua che piangeva, chiedeva di uscire, era visibilmente terrorizzato. Ora dove sta... capì, ma il cane è stato creato per l'uomo, cioè basta a fare queste cose qui. Carmelo, perché hai riacceso il microfono di quest'altro intruso? Allora, no, io voglio capire dove sta la linea del maltrattamento, della demarcazione del maltrattamento, perché queste persone, credo, in buona fede, pensano di non far nulla di male. Ora, ci abbiamo in linea la veterinaria Barbara Gallicchio, ci sei? Sì, ciao. Ciao Barbara. Scusami se sono stata un po' prolissa, ma c'avevo anche un intruso che diceva un po' di fregnacce. Allora, sì, non ho capito chi è, però... Beh, uno esterno che passava, ha sentito e si è affacciato e ha detto la sua. Ha preso il microfono. Ha preso il microfono. Esatto. Senti, che mi dici? Perché qui si parla spesso di questa cosa, no? Di lavare il cane. Cioè, uno si chiede quanto effettivamente il cane va lavato, ogni quanto va lavato tutte le settimane. Beh, intanto, se posso dire una cosa, il maltrattamento magari è fare un cane grosso come tanto da poter stare in una tazzina, no? Cioè, non è lavarlo. Per esempio, invece, è un bel maltrattamento, perché il cane poi a quelle dimensioni lì paga con dei problemi, con la... No, aspetta, non ho capito, io mi sono persa, scusami. No, noi parlavamo di questi cani piccolissimi, a cui tra l'altro viene imposta anche questo esatto. tipo di routine, no? Di bellezza, esatto. eccetera. Figurati se devo pensare io al maltrattamento, allora comincio dall'inizio, cioè per quale motivo abbiamo una richiesta di cani che sono così piccoli da stare in una tazza da cappuccino, certo. che poverini hanno poi tutta una serie di pesantissime ripercussioni fisico, sì. fisiologico, metabolico esatto. e comportamentale legate all'ipernanismo, no? Esatto. È un argomento che possiamo aprire un'altra volta. Sì, volentierissimo. Volentieri ne parliamo. Quindi, detto in altre parole, se noi con la selezione genetica facciamo sì che nascano dei cani che poi rimangono così piccoli, questo è già un maltrattamento di tipo genetico. Cioè già... Certamente. Certo. No? Questo è già un maltrattamento genetico. È il problema se esistono questi cani cosiditti T-cup, no? I T-cup prendi... poodle in America vendono. Per esempio, sì, poodle, sì. Che è perché la gente li vuole, no? Che T-cup vuol dire tazza da caffè, da tazza da tè, quindi cani che stanno dentro una tazza da tè, quindi tu prova a pensare... Esatto, questo qui già è un problema che sarebbe carino affrontare, perché magari la gente non lo sa, che quando un cane pesa 8 etti ha tutta una serie di problemi, poveraccio, con cui deve convivere tutta la vita, magari c'ha l'idrocefalo, magari certo. ha... Vabbè, insomma, adesso come ripeto è un argomento che esula, però mi veniva, no? Sì, spontaneo. Sì, però facciamo una puntata dove parliamo proprio di questo. Questa gente che pensa di essere grande amante di animali perché ha questi chihuahuini microscopici nella borsa, in realtà non è per niente da quella parte, no? Sì. Già in partenza potremmo suggerire magari delle scelte migliori. Poi in effetti il problema che tu hai esposto, io questo video non l'ho visto, però me lo figuro, e certo non potrà mai essere una forma di fornire benessere o di fornire cure a questo animale, mentre invece il bagno può essere una cura, a parte che naturalmente è una questione di puramente igienica, nel senso che noi abbiamo città veramente sporche, dove i cani che sono piccoli, bassi, rasoterra, o magari hanno il pelo lungo e lanoso sulle zampe, tirano su e si tengono addosso lo smog, proprio le sostanze che sono metalli pesanti, microparticelle, sostanze proprio pericolose addirittura, no? Per cui effettivamente il lavaggio, la spazzolatura sono parte della cura, dell'accudimento, parte anche del benessere. Poi se il cane è un cane a pelo molto lungo, e questo è un altro derivato della selezione, no? I lunghi, lanosi, ossetosi, lunghi sulle zampe, sotto la pancia, eccetera, questo cane dovrà forzatamente essere spazzolato, perché altrimenti il pelo infeltrito porta con sé tutta una serie di altri problemi, la pelle asfittica, dentro ci possono essere corpi strani, parassiti, il pelo che non riesce a essere a dare aria. Ma tu, Barbara, pelle, ti riferisci alla spazzolata quotidiana che deve fare il proprietario o al cane che deve essere portato in tolettatore? No, mi riferisco a tutta una serie di cure che cambiano. Ovviamente se uno ha un Labrador o se uno ha un Lever afghano, l'impegno di pulizia è diverso. È diverso. Il Labrador tu prendi un panno con l'acqua e aceto e lo pulisci, e l'afghano no. Quindi fare un discorso generale assoluto su quanti bagni, e dipende molto da quale cane. E anche dalla vita che fa, no? Perché voglio dire... se vive in montagna a 2000 metri sui pascoli, il cane è sempre pulito. Certo, quindi non occorre fargli i bagni tutti i mesi. No, assolutamente, non occorre fare i bagni tutti i mesi, e anche lì poi dipende dal cane che è. Però tipicamente il cane di montagna è un cane con il pelo primitivo, o da spitz, quindi da volpinoide, no? Uh-huh. Quindi col pelo vitreo che non trattiene lo sporco. Uh-huh. Non è che uno ha un husky o ha un samoiedo, lo deve lavare in continuazione, è un pelo che si mantiene pulito da solo. Se poi vivi a 2000 metri non c'è lo smog, non ci sono i metalli. Precisamente, si fa una bella rotolata nel prato rugiadoso, ed è già si pulito. Scrolla ed è pulito. Certo. Quindi, che meraviglia. Ecco, e questo è il motivo per cui una volta non si lavavano i cani. Io credo che però i proprietari che hanno questo tipo di cani siano abbastanza preparati, perché poi bisogna scindere. Adesso ho visto che sono nato un sacco di spa, no? Di spa per i cani, però un conto è la spa dove c'è anche la riabilitazione, perché ho visto tutti quelli che hanno le piscine, perché quando hanno un animale che si è rotto una zampa o un'anca, hanno avuto un intervento, devono fare riabilitazione, quindi la piscina e magari anche usare dei prodotti. Non è proprio una spa, è una fisioterapia. Sì, io su internet ho trovato sotto la dicitura spa, apparivano anche quelle, ma lì magari è una confusione di ricerca. Ma per tutte quelle signore che hanno i cani super piccoli, dai barboncini soprattutto i chihuahua, i volpini, secondo me sono questi quelli che ne fanno le spese. Perché io ho visto questi negozi veramente vergognosi, con le collane, gli strass, tenuti veramente come bambini. Io difatti durante la trasmissione Angelo mi aveva spiegato bene che giustamente un cane non può essere trattato come un bambino, perché ha delle esigenze, dei bisogni diversi da quelli di un bambino, ovviamente, ma come già solo un bambino e un adulto non sono trattati nello stesso modo. Quindi il cane non può essere accudito e trattato come un bambino, perché non rispetti la sua natura di cane. Ti assicuro che vedere questo video a me mi ha fatto venire l'ansia e mi ha fatto anche molto incazzare. Allora, è vero che il cane e l'attaccamento che il cane sviluppa verso il proprietario assomiglia per molti versi all'attaccamento del bambino verso la madre, no? Certo. È vero, è un fatto. Certo. Poi dipende molto anche dal cane, per cui abbiamo anche qui cani che sono molto infantili anche da adulti, e che quindi rimangono così, con questa necessità di contatto fisico, per esempio, e cani che invece diventano... quando diventano adulti sono primitivi, per cui hanno moltissima hanno un'idea di libertà molto maggiore, pur sempre restando il fatto che il cane non diventa mai socialmente indipendente. Certo. Il cane resta sempre in casa nostra e non ci dice mai un giorno mi sono fatto una compagna, vado a vivere da solo. Certo. Questa cosa, quindi la emancipazione sociale nel cane in effetti non c'è. Quindi dobbiamo sempre considerare che il cane resta subadulto, resta sempre vicino a noi, non solo perché è legato al guinzaglio, ma perché proprio non va. Ma quanto è giusto per un cane così piccolo, un chihuahua, i volpini, andare a fare la spa di bellezza con le creme, ma coi non fang? Esiste proprio. Boh. Ma questa cosa non esiste proprio. Quindi cioè, chiunque la fa in quel momento sta maltrattando il cane. Cioè maltrattare vuol dire trattare male. Non sta rispettando le sue esigenze, e soprattutto se lo sente piangere, lo vede terrorizzato, non gli può imporre una roba del genere, perché non è per il suo bene. Ma no, figurati, poi il cane, cioè stare a mollo nell'acqua che ribolle nel cane certamente è una cosa a cui devi abituarlo, giusto perché ce lo vuoi tenere tu, no? Perché di per sé per il cane non è una condizione naturale. Certo. Cioè, ci sono cani a cui piace nuotare, allora io li porto, li faccio nuotare e magari si divertono. Poi ci sono cani che detestano nuotare, perché i proprietari vogliono per forza prendere questo cane e farlo nuotare quando questo cane non vuole nuotare. Non è che bisogna, il cane non è una papera, non è che per forza deve darsi, fare cose. Poi la gente prende Terra Nova e pensa che il Terra Nova il giorno dopo, a 3 mesi, debba andare nell'acqua e nuotare. Non è mica vero, ci sono dei Terra Nova che non nuotano. Capisco che possa essere frustrante per il proprietario, però è così. Bene, guarda Barbara, come al solito sei stata chiarissima e ti ringraziamo ancora per la tua, per il tuo, per può essere utile, per il tuo contributo. Quello che volevo dire invece è che il bagno può essere utile, assolutamente, non solo per pulire ma per curare. Ah, certo. Quindi è vero che per esempio nelle forme di allergia in cui sul pelo rimangono i pollini, le sostanze a cui il cane è allergico, se io le lavo via, proprio la idroterapia in questo caso, sì, è molto importante. Tante volte vorremmo farla fare ma non possiamo, perché metti uno a un pastore tedesco allergico che pesa 50 kg, come faccio a dirglielo lavi tutti i giorni, un giorno sì un giorno no? Ma nella fase acuta dell'allergia il bagno potrebbe davvero aiutarlo. Sì, insomma, ma bisogna di capire che dipende dai casi specifici. Nella norma di un cane sano che non ha questi problemi, soprattutto questi cagnolini piccoli, sappiate che tutte le cose viste con strass, bagnetti, spa, cremine, roba del genere, è una, si può dire, segamentale del proprietario? Beh certo, la collana di strass a seconda il mio desiderio di vederlo vestito, non c'è. Sì, esatto, infatti. Grazie Barbara, un abbraccio grande. Grazie, alla prossima. Barbara, ciao, un abbraccio. Noi ci vediamo tra poco. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci qua, allora parliamo di trekking a quattro zampe. Sai che tante volte noi amiamo l'escursionismo, le passeggiate, eccetera, io adoro, eccetera. Difatti. Beh, insomma, farlo col proprio cane ti dà, almeno per quanto riguarda me e tutte le persone che ho sentito su questo argomento, dà una sensazione di così tanta libertà e di così tanto senso di comunione. Poi, tra l'altro, quando tu hai un buon legame con il cane, la passeggiata in un bosco, forse l'abbiamo detto altre volte, o fare il trekking, è un'esperienza diversa rispetto a quando tu il cane non ce l'hai. Sì, perché attraverso il cane vedi degli orizzonti, scopri, vedi delle cose diverse. Cioè, assume delle forme, delle percezioni, hai delle percezioni diverse dell'ambiente. Credo che possa essere un po' come quando uno va a fare passeggiate a cavallo, no? Io tanti anni fa ero in questo agriturismo di questo mio amico, la mattina, io odio alzarmi presto, come saprai, la mattina alle 6:30 ci si alzava per fare passeggiate a cavallo e si mangiava fuori, andavamo per boschi ed era una roba fantastica. Quindi cavalli, cani, insomma, vivere in mezzo alla natura è sempre un'esperienza. Allora, ho scritto due articoli sul mio blog a proposito dell'escursione con il proprio cane. Ho visto invece che c'è un articolo sulla rivista BioEcoGeo, che tra l'altro mi è molto piaciuta, segnalatomi da Rosita, e tra poco facciamo un approfondimento anche sulla rivista stessa. C'è un articolo dedicato al trekking a quattro zampe che vi consiglio particolarmente, e quindi segnala per esempio un cammino, è un articolo fatto con la Compagnia dei Cammini, no? Che è questa associazione che si occupa appunto di camminare e fare trekking, e organizza dei particolari trekking con i nostri amici a quattro zampe. Ce n'è uno per esempio che mi è piaciuto particolarmente, che si fa in Toscana, tra crinali e i passi che scendono verso la Romagna. Il cammino itinerante, ma accessibile anche ai meno esperti, si articola in un'area naturale di 6.240 ettari tra canyon ed estesi boschi di faggi. Bello, dobbiamo fare. No, la cosa che a te piacerà ancora di più è che una guida d'eccellenza racconterà come la gente del Mugello usava e usa le piante officinali autoctone per curarsi e alimentarsi. Pensate. Beh, no, fantastico, dobbiamo assolutamente farlo. Allora, adesso vi presento, così gli chiediamo direttamente a lui, l'editore della rivista, che è Giorgio Sapori. Giorgio, ci sei? Sì, ciao. Buongiorno Giorgio, che bella ciao, sta roba ciao. Qua. Ciao. Senti, è molto bello, sì, è molto bello. Ma tu hai fatto qualche escursione col cane, un po' di trekking con i cani, oppure no? Sì, ma scherzi. No, ma è proprio una cosa bellissima, una cosa che ti rilassa, è fondamentale per la vita, insomma, i cani diciamo che poi aiutano a migliorare anche la socialità tra le persone, tra la natura. Sì. E quindi penso che sia fondamentale. Sì, è veramente un trade union, no? Cioè è un ponte. Con... Bravo, senti, bravo. Ma allora, visto che noi ci occupiamo di felicità, sì, di come rendere gli esseri umani felici, come si rende il cane felice, quindi la preoccupazione, certo, perché l'altro sia felice ti fa porre diverse domande, no? Certo. La tua rivista è particolarmente in linea con questo pensiero perché tratta di bio, quindi vita, ecoecologia, sì, e geo, sì, o geo, non so come si dica, sì, di, sì, della, sì, terra. Bravo. No? Bravo, bravo. Vedi come è preparato il mio fidanzato? No, immaginato. Quindi, cioè, io l'ho soltanto immaginato. No, ma per quello dal mi sono innamorata cosa, di lui, quindi... pensa. No. No. Storia d'amore. Allora, no, invece io vorrei che ci dicesse Giorgio, meglio, come è nata l'idea, di che cosa tratta effettivamente la rivista, perché queste sono le mie deduzioni dal titolo, che evidentemente, sì, è particolarmente, beh, meno male, azzeccato, perché allora vuol dire che funziona. Azzeccato, funziona. Ma guarda, io penso che è proprio, sai quando che da piccolini, no, ti dicono ma cosa vorresti fare da grande? Ecco, io rispondevo sempre fare un giornale. Ah sì? Quindi penso che sia nata da qui la passione per l'editoria. Poi la mia vita mi ha portato verso il mondo della comunicazione e ho realizzato il mio sogno. Perché Bioecogeo è nato proprio da un'esigenza legata al mio lavoro, un progetto di comunicazione legato all'esigenza di far conoscere il mondo della sostenibilità, che insomma nel 2007 non era ancora un argomento, no, che se ne parlava. Uh-huh. Da lì quindi è nato tutto il progetto che ho portato avanti con tanta passione, con grandi sacrifici, perché l'editoria insomma è... non passo momenti felicissimi, però che oggi come oggi mi dà molta soddisfazione. Sono molto contento, anche se la strada è ancora lunga, perché le battaglie, sì, da fare sono tante. Perché tu tratti degli argomenti che credo purtroppo ancora oggi sono scomodi, sì, e magari non, sì, tutti, non, sì, tutti hanno il coraggio e la forza di poterli, brava, pubblicare, brava, e sostenere. Ma quindi, giusto per far, è capire, vero, un pochino di più i nostri ascoltatori, sì, cioè a parte il trekking a quattro zampe, ci fai qualche esempio di articolo di cui parla la rivista? Sì, guarda, la rivista parla a 360 gradi di sostenibilità. Uh-huh. E tu sai che la sostenibilità nell'ambiente economico e sociale è la caratteristica fondamentale di un processo che garantisce, no, la stabilità dell'ecosistema, certo, e soprattutto la sua biodiversità. Ecco perché l'impegno della rivista è quello tutti i giorni di affrontare argomenti e fare battaglie importanti. È proprio solo per il principale scopo di vivere meglio, no? In un mondo, uh-huh, più sostenibile, e smettere di cementificare, che oltre ma io a parlavo proprio le meraviglie della natura. Non so se tu hai l'ultimo numero della rivista in mano, no? Sì, cioè qualche, sì, esempio in copertina per esempio, sì, cosa c'è? Allora, in copertina, quello che c'è fuori adesso, abbiamo dedicato la copertina ai mari italiani da proteggere. Ecco. E quindi anche quello è un argomento che per la sostenibilità è molto, molto importante. Se vogliamo continuare a goderci questi mari, visto che sono una risorsa incredibile, poi tra l'altro per l'Italia, la stiamo trattando veramente male. Ma sono un po' tutti questi argomenti che vengono un po'. Giorgio mi raccontava di un articolo, di tutta una ricerca che stavi facendo, e mi dicevi che è un problema ancora gravissimo sull'amianto, per esempio. Sì, guarda, stiamo facendo veramente una ricerca importante. Poi ci avrai dei collaboratori bravissimi e preparatissimi, una sorta di, sì, di inviati, guarda, sono tutti, no? Ragazzi giovani, bravi, etici. Bravissima. Difatti per quello mi piace questo. L'amianto è un grosso problema, perché l'amianto in Italia è fa da padrone nelle nostre strutture. E la cosa assurda è che il governo non ha ancora una mappatura completa di quello che sono tutte le strutture. Ma in che senso lo fa da padrona? Cioè io vedi, nella mia ignoranza credevo che l'amianto, se ci fosse ancora qualcosa, però bene o male. Sai, negli anni 70 l'edilizia ha costruito praticamente con l'amianto, e quindi questo amianto qua noi ce lo ritroviamo oggi come oggi nelle nostre case. I camini certo, per esempio in Brianza, certo, che ci abbiamo noi, sono pieni di amianto. Non bisognerebbe usarle, bisognerebbe chiamare chi? La ASL? Sì, ci sono adesso ci sono delle associazioni che intervengono, soprattutto, ripeto, quello che è importante è riuscire ad avere una mappatura, no? Dove poter intervenire. Noi la nostra inchiesta che sull'amianto la stiamo facendo da anni, però oggi come oggi l'abbiamo improntata sulle scuole per il semplice motivo che cerchiamo di sensibilizzare quelli che sono i genitori. Tant'è che adesso a Firenze uno dei primi articoli che abbiamo scritto su una scuola di Firenze verrà abbattuta. Perché sì, guarda, una cosa incredibile. Ma, però sono tutte battaglie che si fanno con tanta fatica. Bravo, però senti, quindi, posso dirti, Giorgio, grazie a te e a tutti i collaboratori che fate questa battaglia, perché ognuno di noi deve fare qualcosa se vuole veramente proteggere il mondo, la terra. Sono felicissima di collaborare con te appena possibile. Volevo ricordare che BioEcogeo si trova in edicola, è un bimensile, no? Ogni due mesi. È un bimestrale. Sì, è un bimestrale, scusa. Tutte le edicole. E poi c'è anche però la rivista online. E la rivista online, sì. BioEcogeo la puoi scaricare e acquistare online. E poi abbiamo un sito che tutti i giorni aggiorna quello che sono le nostre notizie. Molto attivo, molto attivo. Bene. Sì, è importante. Insomma. Senti, grazie. È importante anche l'argomento degli animali, eh? Sì, certo. Sì, che ho visto per che il nostro pianeta sono importanti, preservare la biodiversità. Senti, assolutamente. Infatti questa illusione che l'uomo si possa occupare bene della propria esistenza, occupandosi soltanto di se stesso, è veramente un'illusione. Una bufala, cioè, veramente. Noi diciamo, ma perché occuparsi degli animali quando l'essere umano ha tanti problemi? Beh, esatto. Ha tanti problemi proprio perché non ti occupi di quello che è diverso da te. Bravissimo, bravissimo. Sono d'accordo e mi fa piacere questo invito, perché anche la vostra trasmissione è una trasmissione molto importante e quindi forza a questo tipo di comunicazione. Grazie. Bene, bene, sono contenta. Grazie, grazie Giorgio Sapori, editore di BioEcogeo. Grazie di cuore e ci sentiamo presto e grazie per l'invito. Figurati, buona domenica, grazie, ciao. Ciao Giorgio, ciao, ciao. E noi ci riascoltiamo tra pochi minuti. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Che bella la nostra musichetta. Ta-ta-pa-ta-ta-ta-pa-ta-ta. Il mondo dalla prospettiva del cane. Questo film io lo amo alla follia. Questa qui è la musica del film La Grande Corsa, dove c'è Carmelo! Carmelo! che urla sempre. Oggi che in regia chi abbiamo? Carmelo, che è fatto da Peter Falk, che ha interpretato Carmelo da Peter Falk, ma è l'assistente di questo scienziato folle che è Jack Lemmon, che adoro, amo la follia. Gli altri attori sono Tony Curtis e Natalie Wood. Potrei lavorare. Ma passiamo alla prossima notizia. No, amore, più che notizia, ho deciso di, cioè, come spesso facciamo, voglio leggere una mail di un'ascoltatrice di Clelia Rumor che ci ha mandato dopo che ha ascoltato la nostra puntata sui vari giochi, sul gioco del cane, il tempo lì. Di quanto devi passare tempo con il tuo cane, giocare, interagire. Lei ci scrive: buongiorno, giustamente avete parlato spesso dell'importanza di giocare con il cane, cosa che fa bene ai cani quanto a noi. Con l'autunno e le prime giornate fredde adesso si trascorre più tempo in casa, quindi volevo chiedere se nella prossima puntata potete insegnarci qualche gioco fai da te per poter giocare in casa con il cane, escludendo il lancio del frisbee, giochi di attivazione mentale, di ricerca, eccetera. Esiste qualche libro dedicato? Grazie, Clelia Rumor. Allora Clelia, un po' di cose su questo punto. Uno, se vuoi imparare a fare qualche giochetto in casa, vai sul mio sito www.angelovaira.it, alla sezione video, c'è il video della scorsa edizione del Corriere della Sera, quello sono tutti Animal Nest sul blog. Il sito è angelovaira.it, vai sezione video, ci sono due serie, una è l'ultima del 2015, c'è quella prima del 2010 in cui c'è dei giochi da fare in casa con il cane. Sono in genere giochi di problem solving oppure dell'agility fatta in casa, eccetera, eccetera. Però voglio dire anche un'altra cosa: è molto importante anche nelle giornate di pioggia uscire con il cane. Lasciate che i cani imparino a stare sotto la pioggia. Ho dedicato del tempo anche a questo e anche dei post sul mio blog su questo punto. È importante, anche se piove, uscire con il cane. E laddove i cani avessero un po' più di timore della pioggia, anche lì ti porti fuori un giocattolo e giochi. Bill Connolly, che è un comico americano, lui dice: non esiste il tempo brutto, esistono solo i vestiti sbagliati. abbigliati, quindi armatevi di vestiti giusti e uscite con i cani anche se piove, anche se c'è il brutto tempo. Molti cani adorano star fuori anche sotto la pioggia. Detto questo, è una più del diavolo questa, ha citato pure, non devi so vedere chi. Comunque Clelia, l'altra cosa che ti volevo dire è, se ti interessano dei libri invece, cerca i libri di Aldo Laspina, che è un amico e un collega, e poi ha scritto diversi libri sul gioco. Poi ti consiglio anche Il cane impara giocando, della edizione Hakiana, fra poco la trovi sul sito thinkdog.it, la sezione shop, oppure sul giardino dei libri, insomma online. Ma grande notizia, anticipiamo ai microfoni Radio 24, a novembre esce il mio nuovo libro di Angelo Vaira che si intitola Un cuore felice, l'arte di giocare col cane. Quindi non a caso parla proprio di questa cosa la coautrice, l'altra autrice del libro è Valeria Raimondi, che saluto, e il libro sarà edito da Sperling e Kupfer. Ne parleremo nelle prossime puntate, ma colleghiamoci, visto che ritorniamo a coinvolgere, a collegarci con la nostra mitica esperta di pappa condivisa, con la nostra signore sigla e signori, piatti e ciotole. Piatti e ciotole. Eccoci. E buongiorno a Mara Di Noia, istituzione di piatti e ciotole. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Mara, come stai? Molto bene, grazie. Allora, ricordiamo, tu stai presentando il tuo nuovo libro. Sto presentando il mio libro, Ricette per la mia famiglia e altri animali, da cui traggo questa ricetta, e ecco, così possiamo condividere. Ma scusa, è un libro che ha delle prefazioni particolari? No, questo no, non ancora. No, questo non è ancora perché era un libro, diciamo, programmato per un'uscita l'anno scorso, poi abbiamo avuto dei ritardi, quindi esce quest'anno, e abbiamo delle ricette che sono quelle di casa mia, che possono essere condivise con i nostri animali. Sì, ci saranno delle novità e poi vi ne parleremo. Sì, perché visto che stiamo riprendendo dopo l'estate, le cose così, Mara mi ha fatto scoprire questo aspetto fantastico, semplice, che magari abbiamo sotto il naso, di cucinare, che le stesse cose che cucini per noi, che si cucinano per noi, le puoi poi condividere con i tuoi cani, perché noi che gli diamo la pappa che mangiamo noi ai nostri cani non esiste. L'altra particolarità di Mara Di Noia, veterinario, voglio ricordare, è il fatto che lei cucina su base vegetale. Ma passiamo alla ricetta, Mara. Cioè, oggi chi ci sta ascoltando, no, si mette lì e fa cosa? Può fare oggi, visto anche il tempo, andiamo verso l'autunno, quindi possiamo utilizzare dei prodotti di stagione. Quindi io vi propongo la quinoa con zucca, piselli e rosmarino. Vi racconto la ricetta e poi vi dico perché cuciniamo questa ricetta. Sì. Allora, ci occorrono 300 grammi di quinoa, 600 ml di acqua, un chilo di zucca delica, che è quella che sa un po' di castagna, è dolce, 100 grammi di piselli, 30 grammi di olio extravergine di oliva, 2 rametti di rosmarino, un pizzichino di sale, proprio poco. Bisogna sciacquare la quinoa sotto l'acqua in modo tale da togliere dei residui che possono essere amari, cuocerla in un coperchio con l'acqua per 15-20 minuti circa. Scusami se ti interrompo, come faccio spesso la quinoa? La quinoa va sempre sciacquata prima di essere bollita? Esatto, la quinoa va sempre sciacquata, perché sennò può rimanere amara, soprattutto le varietà rosse e nere che hanno delle sostanze intorno al seme che sono chiamate saponine e sono amarognole. Quindi è un'erba la saponina, pensa? È una sostanza amarognola, non è gradevole. Dopo che abbiamo fatto assorbire tutta l'acqua, possiamo in una padella antiaderente mettere l'olio, la zucca tagliata a dadini, i piselli, anche surgelati, è consentito, un cucchiaio di olio e cuocere per qualche minuto. Aggiungiamo il pizzico di sale, un mestolo d'acqua e cuociamo per altri 15 minuti. Scoliamo la quinoa dall'eventuale acqua in eccesso, la sgraniamo con una forchetta e la versiamo nella pentola con la zucca. Alla fine aggiungiamo il rosmarino tritato, un altro cucchiaio d'olio, mescoliamo fuori dal fuoco in modo tale da amalgamare tutti questi meravigliosi sapori. Distribuiamo nei piatti di portata per diciamo i commensali umani, nelle ciotole per i nostri amici animali. Bellissimo. Da, andare a casa, ecco, scusami. Per chi ci sta ascoltando, se vi siete persi qualche parola di Mara Di Noia, vi ricordiamo che sul sito di Radio 24 trovate i podcast, quindi potete scaricarveli, riascoltarveli quante volte tutto, volete. Tutto dall'inizio, dal 4 luglio dell'anno scorso, due anni fa. Ma scusa, solo una cosa, tu hai detto il rosmarino tritato, lo tritiamo con la mezzaluna? lo possiamo tritare al coltello o con la mezzaluna, indifferente, lo possiamo spezzettare con le mani. Okay. Allora, ci tengo sempre a ricordare che sono delle ricette semplicissime in cui non ci servono delle grandi attrezzature, possiamo fare tutto con ciò che abbiamo più a portata di mano. Le mie ricette non impegnano più di 35-40 minuti perché siamo tutti impegnati, ma diciamo cucinare in modo sano vegetale è possibile per tutta la famiglia. Uh-huh. E soprattutto osservate i vostri animali quando riempite la ciotola e vedrete il sorriso. Ma dai, fantastico. No, questa è una cosa molto importante. Già quando si passa dal cibo secco, no, all'alimentazione naturale, effettivamente c'è un cambiamento, cioè il cane è molto più appagato, no? Certo. È meno nervoso e via dicendo. Mentre tu, Mara, proponi delle ricette su base vegetale perché hai riscontrato insieme ad altri professionisti che non c'è, per via empirica proprio, cioè per osservazione, non c'è nulla che cambi nella salute del cane. Allora, diciamo che noi siamo partiti dal dato empirico, come abbiamo detto più volte, quindi uh-huh. dall'osservare che l'animale alimentato con un'alimentazione sana, equilibrata, ben pensata, cioè fatta uh-huh. con criterio su base vegetale, non solo non altera lo stato di salute, ma spesso lo migliora. Certo. Poi ci siamo messi a studiare la letteratura, non parlo di letteratura scientifica nazionale, ma addirittura di letteratura scientifica internazionale, uh-huh. ci dice che ciò è possibile. Quindi la bibliografia per gli scettici, lo dico, è vastissima. Uh-huh. Noi ci siamo presi la briga di studiarcela e quindi con responsabilità diciamo che questo si può fare. Benissimo. Grazie Mara, che bello riaverti con noi. Ricominciamo a fare queste ricette. Se avete domande su queste ricette di Mara De Noia, scriveteci a chiedimi se sono felice, @radio24.it. Un ciao a tutti, ciao a Mara De Noia, ciao a chi ci ascolta, ciao Rosetta Celentano. Ciao Angelo.